America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Beh, restiamo su Donald Trump, anzi direi che sarebbe il caso di dire lascia o raddoppia. E quello, altro che lascia, quello ha raddoppiato, anzi ha triplicato, perché nonostante ci sia stata una levata di scudi totale contro queste sue richieste che volevano impedire a qualunque musulmano di entrare negli Stati Uniti, e quando è stato intervistato ieri, dire ma signor Trump, lei fa marcia indietro, si rende conto di aver detto forse qualcosa di eccessivo, di divisivo, qualcosa di inaccettabile che divide invece di unire, ecco cosa ha risposto. No, because what I'm doing is no different than what FDR's solution for Germans, Italians, Japanese, you know, many years so ago. So you're for internment camps? This is a president who was highly respected by all. Ecco, come dire, non c'è limite, potremmo dire che non c'è limite alla vergogna. Perché che cosa ha fatto Donald Trump? Si è paragonato a Franklin Delano Roosevelt. È un genio sotto un certo punto di vista, perché ha sempre la risposta pronta, è sempre pronto a trovare, come dire, un contorno logico a quello che lui sta facendo. E qui dice, ma insomma, è lo stesso presidente degli Stati Uniti, il democratico, il paladino dei democratici. Io sono un repubblicano convinto, lui era un democratico. Durante la Seconda Guerra Mondiale ha internato persone di origine giapponese, tedesca, persino italiani, perché erano sospetti di avere dei rapporti con i nazisti, con i fascisti oppure con il governo giapponese. E dunque, se un presidente attivo che ha vinto una guerra come la Seconda Guerra Mondiale, che ha trasformato l'America, ha preso delle iniziative di questo genere, non vedo perché io non possa suggerire che fino a quando non si troveranno delle risposte adeguate a questi rischi e a queste minacce, semplicemente ai musulmani impediremo di entrare negli Stati Uniti. La cosa che devo dire però mi preoccupa di più è che ce l'ha fatta a fare che cosa? Non soltanto a diventare protagonista, ma è riuscito a portare in America quell'oltranzismo che io definirei non americano, un-American, che non è mai appartenuto alla tradizione di questo paese. Perché è vero che quando ci fu l'attacco a Pearl Harbor, alle Hawaii, il 7 dicembre 1941, tra l'altro abbiamo passato di un paio di giorni appena l'anniversario di quel tremendo attacco, è vero che ci fu una reazione di totale paura e spavento da parte degli Stati Uniti, ma è lì, ragazzi, lì capitò che il Giappone, una potenza straniera, bombardò per la prima volta in casa l'America. Beh, erano le Hawaii, non era l'America continentale, ma era lo stesso un territorio americano, era una bandiera americana, era una guerra dichiarata da un'altra nazione. E comunque sia, bisogna che ridimensioniamo questo ISIS, perché qui stiamo parlando di 20.000 fanatici, non di più, 20.000 fanatici, non di un paese, di una nazione. Cioè, voglio dire, Donald Trump sta trasformando l'ISIS davvero in un califfato che in realtà non esiste o comunque non esisterà più. E sappiamo che l'America è popolata da movimenti che però sono marginali, movimenti per la chiusura, bigotti, estremisti, razzisti. Ci sono ancora nel sud i militanti del Ku Klux Klan che si mettono il cappuccio bianco e vanno in giro a fare le loro riunioni. Sappiamo cosa sono stati gli estremi, le fobie, le ingiustizie del maccartismo oppure di certi movimenti demagogici di fine Ottocento. Però è ormai da decenni che certi errori, perché di errori si è trattato, il maccartismo è stato un'aberrazione dello spirito americano, come la deportazione dei giapponesi nei campi di concentramento è stata un'aberrazione dello spirito americano sotto Franklin Delano Roosevelt. Ecco, queste aberrazioni sono state riconosciute, ci sono dei parametri nuovi della correttezza politica che si sono affermati nel corso di decenni, sono dei parametri per la non discriminazione, per il rispetto del prossimo, e hanno definito con chiarezza anche un perimetro accettabile del dibattito politico. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out What the hell is going on? Ecco, abbiamo sentito di nuovo Donald Trump in un comizio nella Carolina del Sud. Qual è un'altra trovata? Beh, è stata quella di dire dobbiamo chiudere l'accesso a internet in modo da impedirgli di comunicare a tutti coloro che vivono, che abitano in zone che sono a rischio. Ha chiamato, pare, persino Bill Gates per chiedergli aiuto in questo, per chiedergli di escogitare un qualche programma software che possa garantire l'America in questa sua nuova missione di protezione sulla rete. Ecco, questa sua posizione è stata ridicolizzata non solo dagli esperti, non solo da chi in America parla sempre di apertura, eccetera, eccetera, ma è stata ridicolizzata persino dagli estremisti islamici che lo hanno un po' sbeffeggiato, gli hanno detto: ah sì, tu ci vuoi chiudere internet? Vediamo, provaci, vediamo cosa sei capace di fare. Qual è la cosa che mi preoccupa? Tornando a quei parametri che definivano un contorno politico in cui si operava nel rispetto e riflettendo quelli che erano i valori americani di fondo. E che questi parametri con Trump sono saltati, non solo perché quelle dichiarazioni le ha fatte così, senza pensarci due volte, senza considerare l'impatto di un messaggio che va a fagocitare l'odio, ma perché è lui che guida i sondaggi per il primo appuntamento elettorale per le primarie, anzi per il caucus in Iowa. E questa è la differenza, che mentre uno come Trump in passato con dichiarazioni contro i musulmani sarebbe stato marginalizzato, invece lui già prima di queste dichiarazioni guidava i sondaggi. Ecco, è chiaro che in un momento di paura collettiva per una buona parte degli americani prevalgono le reazioni emotive. Attenzione, perché questo tipo di populismo alla Trump è quel populismo che già abbiamo visto in Europa. Abbiamo visto cosa è successo in Francia con la Le Pen, che si è rafforzata molto, abbiamo visto cosa è successo in Ungheria, abbiamo visto cosa è successo in Polonia. Dunque in Europa ci sono già dei movimenti populisti, demagogici, che non si affidano a quelle che sono le realtà, diciamo, delle sfide per affrontarle in modo concreto e razionale, ma cercano di capitalizzare sulla paura della gente. Ecco, questo secondo me resta molto preoccupante, preoccupante che questo sentimento sia arrivato in America, con la speranza che gli elettori militanti repubblicani si rendano conto che stanno per superare quel sottile confine che separa ciò che è eticamente accettabile e che rispondano con una bocciatura decisa di questa escalation della destra trumpiana, che insomma, diciamolo, è fuori dalle corde degli americani così come li abbiamo conosciuti finora. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vi fa più tempi difficile, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Siamo in canzoni natalizie, voglio rendere omaggio a 35 anni dalla sua morte a John Lennon, ucciso a Central Park l'8 dicembre del 1980. Vi dirò che quella sera con il collega, con l'amico, con il carissimo amico Guido Barenson, eravamo andati a seguire proprio quella tragica nottata andando in giro per ospedali e scrivendo purtroppo quello che ci raccontavano le drammatiche cronache di quelle ore. Ecco, io direi, visto che siamo in mode di canzoni natalizie, di proporvi di John Lennon Happy Christmas, war is over. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear ones, Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!